si fa a metterli a tagliarsi? Guarda, tutti i consorzi, proprio quelli cinesi, quelli switching. Lo so, però anche io qua sotto. Non è quello il problema, non ho capito come fai. Come fai a metterli a tagliarsi? Sono condizionati. Ma non si bruciava. No, guarda, c'è tutto. Qua c'è tutto il collegamento, capito? Che ce l'ho qua di fronte. C'è quello, c'è un'uscita che fa la 12 e poi l'uscita che fa la 24. Non penso che sia così difficile a farlo. No, ma non è difficile. Già, è semplice. Ecco, il tipo del principe che fa la batteria, poi da 2 alla 2 c'è la 24. Ho capito. E quindi come si fa, se poi la palla non devo nulla. Aspetta, c'è un messaggio. Guarda. Stavo dicendo, lei come è messo? Falli sentire a Roberto come esci con la radio, con l'eco. La radio, senti qua questo piccolo elicottero con la colla, scappa. Ma te lo prendo pure io, Daniele, con quello che si sta lì. Ooh. buonasera. Attenzione, non sono accendono i LED da 8 e basta, capito, mi arrivi con quel segnale lì e là si ferma, non ci sono picchi. Comunque se ci dovessero essere i picchi mi accende qualche altra tacchetta piccolina, però è fisso a 8, capito, il Santiago. Senza negativi, positivi, è stabile, capito, il tuo segnale. La radio è buona, no, non è 5 perché diciamo un po' contratta come microfono, non lo so se stai usando un preamplificato o qualcosa del genere. Negativo dopo il microfono praticamente dell'apparato, ma io ti guardo molto più. Sì, comunque è buono anche il microfono, dai. Niente, io ho acceso adesso perché stavo provando da oggi, ho preso un rosmetro nuovo, le Diamond SX100, lo stavo provando e pare che funziona egregiamente perché l'ho preso usato ma è pari al nuovo praticamente, l'ho preso un'occasione su eBay e già va bene. Daniele che è rientrato. Mi sono sentito forte perché ho avuto una pace e quindi mi ho fatto un po' di avviso, dai. Una bomba. Meno male, dai, meno male. Vedo che si è fatto, sto facendo una prova, Carlo. Ricordo una cattura che gli ha fatto il coperchio dove è lui. Perché non è protezione. Però sembra che stia reggendo, egregiamente. Quindi siccome mettono questi tappi che non facciamo respirare bene. Quindi sicuramente si è spento tutto perché l'ha mandato in protezione, sì, magari ha bisogno di un po' di ventilazione in più. E si conferma, perché se ti ricordi ieri che, non so se tu c'eri, ho fatto le prove con Massimiliano Bulldog, prova, si è spento tutto, perché non è successo, è acceso tutta la sera, tutta la mattina, tranquillo, andando. Poi scavano la trasmissione, boom, blackout totale. Non prendere male. Mi ha bomboio, ciao bombolo. Quindi, caro, mi sento l'amico di Porto Torres. Che ti sente? Prima anche lui ha attaccato qualcosa e ti ha anche risposto, capito? È Mario, ciao, buonasera Antonio, c'è Daniele, io e c'è Mario da Porto Torres. Salutatemelo a Mario. Mario, lo senti Antonio, ti ha salutato. Negativo, non riesco a prendere un'altra cosa, solo che poi sono orientato su una vediamo. Se non dovesse funzionare, come mai? Che potrebbe essere usato. Sono sempre più freddi, ma sono sempre dentro la potenza. Quindi voi anche. Va bene, prima dei ripeti tutti gli insulti, ma niente, detto molto, molto compresso, evidentemente sai vedere di cose, ma non so per cosa vi sta fatto, no? Dalla macchina, non so come si dice in macchina, non so se riesco a arrivare qua a poco giorno, ma almeno penso che si chiama. Ripresi di niente, che cosa? Ho capito, sono di riprendere, se non sbaglio, però... Non so, papà, non riesco a capire, ed è un peccato, mi dispiace. Ti ha risposto Daniele, l'hai sentito? No, Carlo, si è fatto un altro passaggio, lo potevo aver lanciato, no. Perché, ripeto, sono papà, non riesco a capire cosa sta dicendo. Ho capito, Daniele. Antonio, dove sei? Al lavoro? Chi è che non capiva, non stavo dicendo niente? Chi è? Tino! Tino, buonasera! Buonasera, Tino! Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sono entrato così, gamba tesa, non so chi c'è. Ha morito allora, a rischio di espulsione, sì, allora. Daniele e Antonio. Avete parlato un po' in tre, comunque non fa niente, ho capito. Daniele e Antonio. Carlo e Mario da Porto Torres. Ciao Carlo, Mario, non so se mi ascolti a Porto Torres, È quello che penso meglio di tutti, a me lo vogliamo bene, vai, ritiriti salutato allora. Buona serata. Anche a te, non ho capito il tuo nome, ma allora. Io sono mai voi per visitarvi, devo fare una cosa abbastanza semplice, rimando per te, vi saluto tutti, rimando in quelli in corso e vi saluto per visitarvi, ciao Mario, fai tranquillamente, noi siamo qua, tanto fai chiamata, già ci becchi sempre su 10, niente, ti ha salutato Tino e ho capito che lo senti egregiamente, avanti Tino per Mario. Ciao Mario, dai, sì, Tino, come sempre, dai. Mi è sembrato di sentire anche Antonio, se non sbaglio, Antonio ci sei? Mamma mia! E magari è arrivata gente perché mi ha detto che era al lavoro, Tino. Ah, infatti no, volevo giusto avvisarlo che qua nella mia frazione era bassino, per quello adesso ho capito che era al lavoro. Sto usando poca potenza, sto usando perché no, non posso perché sennò si blocca la tastiera del computer. Va bene, torniamo già, ti ascolto. Quindi mi hanno toccato scendere di barra, hai capito? Sennò io che si blocca il computer. Quella di Mario? Stazione fissa Mario, era da casa sua. Non so che dirti, c'è molto QRM, lui ha detto che faceva anche un po' di fatica a sentire qualcuno. Ficca, perché vanno a trasmettere, si portava preso tutta una serie di riflusioni arrivando e quindi lo copriva, capito? Già, ho capito. Antonio, ho trovato quel formaggio che mi hai detto tu, è molto buono. Poi Antonio già è buon gustaio. L'altra volta mi ha detto se aveva fatto una pasta asciutta e anziché mettere il grana aveva messo il gran campidano, no? Che è un formaggio tipo la grana, però di marca sardo, arborea. Ed è buono il formaggio vaccino, c'è una stagionatura di 14 mesi e per la pasta asciutta è ottimo. Ah, va bene, da provare. Io solitamente uso il grano stesso. Anche io, perché il parmigiano, i miei figli lo trovano troppo, dicono loro, troppo piccante, no? E quindi preferiscono il grana che è un pochettino più, diciamo, dolciastro come sapore. Però questo gran campidano, ti dico che al grana gli sta sotto di un pelino, Bene, bisogna provarlo allora. Daniele, ci sei? Ci ci sono, ci sono. Sempre qua. Stavo pensando, e sai, gli faccio. Per un tempo poi gli faccio un intaglio dove c'è il vento per poter avere questi buchi e gli faccio un quadrato e così li metti i tappi e loro dovrebbero essere tranquilli. Sempre inventando, insomma, dai Daniele, sempre inventando. Perché non l'hai fatto questo problema, capito? Non so per quale motivo quest'anno mi ha preso così. E vabbè, ogni tanto c'è una da sistemare qua. Sì, ogni tanto davvero. Se non ce n'è ce le troviamo le cose da sistemare, dai. No, niente, io ho preso questo SX100, l'ho pagato 2 citi, l'ho preso su eBay, usato, mi hanno mandato scatola, tutto, lo scontrino ancora in garanzia, qualcuno che ha preso e poi si sta vendendo tutto perché ho visto che aveva altri oggetti in vendita e l'ho preso al volo, mi è arrivato in 4 giorni. Diciamo l'ho pagato più di 60 euro, 63 euro e qualcosina con la spedizione. Allora, sì, Antonio. Allora, tu hai comprato un laghi su Gaggio? L'hai provato? Stavo dicendo prima, l'ho trovato, sì, è molto buono, ci ho fatto la pasta asciutta e ho visto che hanno apprezzato a casa. Scusate ragazzi, devo un po' di bianco mi serve perché devo accompagnare gente fuori da casa. Sentiamo dopo. Ciao Tino, ci sentiamo dopo. Vai Antonio. Ciao, ci risentiamo Tino. Avanti io. Va Daniele. Ehi, Mattia, dopo un po' di vento. Gara, anche stando alla cucina, così va poi. Io cucino sempre, non è che mi do la cucina, io cucino sempre. No, siccome gli ho detto vai e prendi quel tipo di formaggio, gli ho detto, e provalo. Avevo ragione io, vero? È più buono o non è più buono? Sono guero, Marco. No, è buono, è ottimo, peccato non saperlo da prima, perché costa anche meno rispetto al grana, Costa anche meno ed è più saporito, molto più buono. Guarda, se vai qua alla salumeria di Via Mosca, lo vendono a 11,90 il chilo, mi pare, una cosa del genere. C'hanno le forme così grandi, te lo grattano quanto ne vuoi, te lo grattano, Tu vuoi un chilo di gaggio? No, te lo grattano un chilo, te ne grattano. Ma se mangi niente di gaggio, però, non se mangi niente di ghiso, ma buono, però, ce l'hanno, in forme grandi ce l'hanno, quel gran capitano, capito? Io l'ho preso, però l'ho preso a spicchi, capito, Antonio? Non lo prendo grattugiato, perché me lo grattugio io quando mi serve, me ne grattugio un'etta e mezzo, così, e ci faccio una pasta asciutta per 4, e così rimane più fresco anche, capito? Sì, ce l'hanno anche loro a spicchi, ce lo vuoi a spicchi, te lo vendono. Non so quanto hai pagato tu, ma... però è molto più saporito e molto più buono, non so guero ma allora che cioè io l'ho provato tutti e due, l'ho comparato uno e l'altro, l'ho provato, sentivo la, io ero abituato a mangiare quello là, sentivo la differenza un po', cioè, ed è buono, molto molto molto buono. Lo credo, il formaggio di vacca, poi se possiamo diciamo aiutare la Sardegna con gli acquisti è meglio che prenderlo dall'Emilia, capito, da dove viene la grana, meglio prendere questo. Io me ne ho preso un pezzo per assaggiarlo e l'ho pure finito e adesso quando ci passo da quelle parti me lo prendo. Sì, no, vale la pena, è veramente buono, cavolo, ma buono però, molto più saporito dell'alaro. Però cioè, praticamente viene fatto dall'arborea, fatto con latte sardo, lo sai che l'arborea è l'under, cioè, la roba è buona, vero, sono veramente bravi. A voglia, sì. È ovvio che il latte nostro è anche più saporito rispetto all'altro, poi quella marca lì Arborea fa di tutto ormai, dalla mozzarella, anche fa quella mozzarella. mozzarella senza lattosi o fare yogurt eccetera, del formaggio vaccino ha un sacco di roba. Sì, no, ma sono buonissimi, guarda, veramente roba buona, veramente roba buona, il latte prendo solo quello, anche ho provato l'altro, una volta ho provato di Submarmat, e cos'è, pari a Eva quando rubisì, a Tinnanda, mi si buchi da Danante. Comunque Gianni mi aveva mandato la pasta asciutta tua e la fotografia. Il fondo del piatto però era quello, Anto. Sì, la dimmi, sono capintato, mi ha giubbegliato, l'ho fatto, quel sugo lì l'ho fatto proprio come ce lo fatti a nonna. Ma ci ho comparato chi su passa bumanda, chi sa mano. L'ho fatto proprio come lo faceva lei. Oh, i miei città che stavagna, cazzo. Mamma mia! Buona, buona veramente, sia io che Sara mia cognata, diso, e non mi buoni mangiare, sai, perché Sara è diabetica, e mi ha mangiato, che era buona un bel, e me ne ha passata, mi ha già crepata pure l'indomani, buona rete, dici tu chissà cosa, perché è molto più buono delle bottiglie con il fatto che da maniera, ma... Ci vuole più tempo, ma è più gustoso, già lo credo. Bene, Mera. Niente, quindi tu sei al lavoro, Anto. Rilanciamo a Daniele che io sto scaricando una cosa col computer. Daniele. Anche scusami, 30 secondi, poi l'altro tappo. Ah, 30 giusti, eh. Via, fai, fai. Anto, ieri sei entrato in radio tu ieri sera. Ottimo. Ci sono, fatto tutto. Ah, Daniele, niente, adesso stavo regolando, però qua, allora, vediamo un po' con quanti watt sto uscendo, sono sulla scala di 30, ecco perché, adesso dovrebbe andare meglio. Sembra di sì, vecchio. Adesso che lo praticamente ha pure l'illuminazione questo rosmetro, è bellino, dai. Adesso vedo un po', me lo sistemo, me lo fisso bene e lo metto sopra la radio e così mi faccio tutto, perché ha la stessa dimensione della radio, praticamente la stessa larghezza, e quindi ci incastra perfettamente sul mobiletto. E quindi ti fa tutto una specie di completo, dai. Sì, esatto, mi ho fatto una piccola stazioncina sistemata, perché non ho molto spazio, capito, quindi radio molto voluminose, non, cioè le potrei mettere, ma mi tocca mettere una mensola a fianco e cioè, vicino a una porta, non è la cosa migliore, invece così riesco a gestire tutto in un piccolo spazio. Va. Sempre buona, sì. Il segnale qua è a bomba, fondo scala, fisso, la radio è super 5, cosa ti devo dire? Va bene, meglio così allora, dai. Bene, guarda, sembra che stiano tutti andando nel verso giusto. Perché l'altro senza il tappo era più fresco, l'altro che c'era ancora il tappo stava iniziando a scaldare leggermente, mentre adesso sono tutti e due, c'erano un sassi fresco, dai, diciamo, giusto? Io per esempio l'alimentatore ce l'ho sopra il pensile, diciamo che non lo sento nemmeno perché mi devo mettere una sedia per toccare se scalda o meno, però anche quello l'ho preso nuovo, sarà un mesetto fa, sa Delta, praticamente a 30-32 ampere di picco, quindi riesce a gestire bene sia la radio e sia l'altro, diciamo. Io invece ho tutti per terra, dai. Per terra c'hanno un ripiano. Per trovare un ripiano con i piedi passi in basso. E la mensolina e sopra c'è la radio. E bambini, c'è un casino qua. Vento e contro vento, rumori contro rumori. scusate, sono dovuto uscire un attimino. Mattino, tranquillo. Tino mi ha chiamato. Ah, tu, ma Mattino? No, è Tino, no. Ah, un po' la bambina allora. Sì, mi tra un po', chiudo le trasmissioni. Io riprendo un attimo, stavo controllando perché ero attaccato, adesso ho staccato tutto, sto uscendo solo con la radio, il 747 è una piastra sembra, maledizione come scalda. Sì, ha messo pure un paio di pomodori. Stufetta, capito, come lo accendi, se ci stai mezz'oretta a parlare diventa caldo caldo. Ebbè, è normale. Ah, c'è che il mio invece non scalda più di tanto. Anche non bisogna stazionare in occhio, no. Ma anche io, stazionarie qua a zero, mi ho controllato proprio stasera, ho fatto le prove sull'1, sul 20, sul 40, e neanche si muove la lancetta, si muove appena appena quando poi vado oltre le frequenze CB, allora mi sale di appena appena, capito, ma poca roba. Allora sembrava fatto le antenne. Se ti dico che me l'hai data perfetta, cosa vuoi che ti dica, Cla? Beh, se l'hai stata fatta regolare, se non era l'altro, l'ho piazzata, tarata e tutto l'altro, visto che tu non avevi tempo e voglia, ma c'era tutti comunque. Ciao Antonio, Carlo e Daniele. Buonasera, buonasera Claudio. Buonasera Claudio. Ehi, ehi, tutti pompando state, eh? No, io no. E tu pompi, non pompi, che andaci in chivi, sei 9.30 per paura la pompa. Ieri ero un po' di più, adesso, ho dovuto attaccare perché sennò si bloccava un computer in occhi. Sì, andiamo a vedere lo stesso, adesso arrivi una bomba qua, non lo fai, dici, arrivi benissimo. Alla grande, più alto di Daniele, più alto di Temmie, lo superi solo se attacchi. Io sono attaccato purtroppo qua perché, se ti ricordi, non so se c'è, l'altra sera la signora mi ha fatto una cosa, fammi sentire l'elicottero come gira. Con l'altro sta funzionando, appena faccio il cambio della radio, sarà per il blackout l'alimentatore. Che ha fatto la civiliana, quello del 24. Adesso ho tolto i campi laterali e il difetto è sparito, non va più il blackout. Sì, è lì. Com'è? È la mazza di nell'aria. Secondo te sta arrivando per me, allucinante il tuo bombolino. Adesso come attaccato proprio è al massimo, già si vede. Ciao Claudio. Sai che scendo un po' di qua, se no ci sarà già bloccato il succato della tastiera. Adesso l'ho reso dirmi dalla tastiera a posto, se no chi c'è? Ah, si torna, cazzo, bloccato il computer. Allora lo spengo, dai. Vedi, spegni Antonio, arrivi fortissimo, non c'è bisogno di attaccare. Attaccalo se ne ha necessità, se no lascia perdere. E Daniele, quello può essere un difetto, magari è poco arieggiato, va in protezione, capito? Se sei in un posto caldo o c'è caldo dentro casa, tieni lì i tappi, toglieli. Sì, qua, tutto aperto, sono trovati, ho tolto tutto per provare. Sono tutta la sera lì, odorando e facendo, e sembra perfetto. Infatti, prima ho tolto uno di tappo, poi vedrete, magari quello di destra, magari si blocca la ventolina e se ne va in protezione, invece no. Poi l'altra invece va con il tappo laterale e stava riscaldando. Adesso ho tolto tutti e due i tappi e il tappo di sopra, e sono uguali. Sì, già lo so, già lo conosco, quell'alimentatore, lo tocchi a me, capito? Quindi fai così, tieni lo scoperchiato, in modo che riesci bene, perché magari ti va in protezione gli alimentatori perché c'è troppo caldo, capito? E si conferma, noi come sta scaldando anche, adesso magari è troppo caldo, nel senso c'è un po' più di caldo e tutto, e risentono sicuramente. Ecco qua, là, sono ritornato agli origini. Sì, 9.30 sì, Antonio, già va bene. Sta pagato, dai, riprendi Carla, io mi allontano un attimo e ci sentiamo dopo qui se ci siete. Allora, già siamo stati qua noi. ci possiamo stare, insomma, dai. Io niente, l'ho toccato adesso il mio alimentatore fresco fresco, appena appena si sente dietro un pochettino, c'ho 32 ampere, quindi già non sporta più di tanto. Stavo dicendo, un giorno l'ho fatto una volta solo, ha già attaccato chi sa valvole, Gesù Cristo mio, no? Già ti ho sentito. Va bene, dai, vi lascio un attimo, poi ritorno, vai Daniele. Ciao ragazzi, mi adesso attaccato il suo originale, dai, andiamo con questo e via, sennò qua è un casino. No, così Daniele, già va bene, sei sceso appena di una tacchetta, però va meglio. Quella è la battaglia, Carlo, quello che serve fare le guerre crociate sul 45. Se fa bisogno a Platamona è 29,20, la mappa in Italia che c'è coso, ma sta più di là, più scaldata, più pompata questa cosa. È arrivata una cosa impressionante. Quello a valvole dici, Anto? Ma non avevo attaccato più mia madre, grazie da voi mi cudini, non che... quello pompa forte. Domenica l'avevo fatto, Gesù Cristo mio. Via? No, io adesso sto uscendo solo con quelli della radio, capito? Ah, già va bene. Già. Solo quelli della radio bavano. Sì, poi già c'ho l'antenna buona io e quindi non c'è bisogno. Prima ho attaccato un attimino perché stavo parlando con Mario a Porto Torres, è giusto per provare, capito? E come ha attaccato mi ha detto che ero salito di segnale di 1,5, già va bene. Però poi ho staccato, non, qua passano 5 watt e va la grande per Sassari. Oh, ma anche io non mi posso lamentare, dico la verità. Tu vai bene sia da lavoro che da casa, Anto. Ciao, e vado a Ringo, non c'ho manto qua, non c'ho chissà che cosa. C'ho solo la Ringo e funziona bene. Rivista riparata da me, la devo solo un po' più isolare dall'acqua perché deve essere da qualche parte entra acqua e mi dà problemi. Mette le capacatrava tanto. Sì, no, amara. A questo punto mi viene che ci bomboletti e da voi però la cannito. Sarebbe male l'idea. La rivesti, la fai tutta nera, con la capacatravata. Vedi come tra più un goccio d'acqua. Oh, tranquillo che con quelle bombolette non entra più. E poi parli col muro. Può essere. Oi. Va bene. Che antenna stai usando adesso, Carlo? Sto usando quella che mi ha dato Claudio, è una J-Pol della Smartec. Ah, bene. Che piace sempre a me. Sì, è una 7 ottavi, è lunga più di 8 metri, bella lunga, è praticamente a forma di J, ha due elementi, uno alto e l'altro quello più basso dove c'è anche l'asta per fare la taratura, te la metti tu come vuoi, capito? In base alle frequenze che usi e la puoi ampliare oppure centrartela sui 27 come preferisci. Però siccome l'aveva tarata Claudio e me l'ha data così come me l'ha data lui, io l'ho rimontata, piazzata e controllo le stazionarie e praticamente non sale mai la lancetta. Di russo. No, perché stai usando sempre... Avevi la boomerang prima. Prima avevo un dipolo dell'Assirio, quello SD27 in alluminio, capito? Lungo 5 metri e 85, non mi ricordo, 5,65. Lo potevi mettere su due versi, sia orizzontale che verticale. L'ho provato in tutte e due. Prima l'avevo piazzato in orizzontale e andava bene per i DX perché lontano ci arrivavo forte. Però poi in locale mi sentivano molto basso, capito? Perché il segnale ovviamente è diverso. Quindi l'ho girato, l'ho messo in verticale e a quel punto andavo bene, capito? Cavolo, ecco perché ho scoperto riuscivi a sentire bene Porto Torres, io invece sono ancora a Calimero. Ma io Porto Torres lo sentivo anche con la SD27, quando l'ho girata da orizzontale a verticale, riuscivo ad arrivare anche lì Santiago 8, capito, con quella là, perché io già sono in una posizione molto aperta e su un palazzo abbastanza alta, quindi vicino non ho altri palazzi più alti del mio, per cui a voglia dal tetto dove ho l'antenna vedo tutto quanto il mare, la Linara, tutta la zona di Porto Torres, i monti di Osilo, capito? Quindi sono molto aperto dappertutto. Bene veda, bene veda. No, io facevo lei il giro stesso. Andavo bene, sentivo le distanze abbastanza bene, diciamo, ecco prima. Ma con questo adesso sono sceso. È anche troppo quello che sta facendo. La posizione in cui sono io. Ricordami dove eri tu più o meno, dai. Via l'Italia alta, dai. Ma sono quello più basso, perché sono dei palazzi da 5 piani, la mia è quella più bassa. Ma già vivi bene da via l'Italia e anche quella è un'ottima zona. Comunque la Boomerang ha messo su un palazzone alto. Sì, Antu, quello sì, già, senza ostacoli viaggiamo tutte, capito? Alla prova, quando iniziamo ad avere qualche ostacolo o qualcosa, bisogna cercare una soluzione migliore. Sì. Sono in basso, sono, se io ti avrei un barazzo di nonchi guai. Tu pensa che sei a piano terra, sei a zero, si può dire. Pure vedi quanto esco forte. Sì, qua in città va, la grande, capito, va bene. Tu bisogna avere con le distanze, come è, capito, magari se alzi un po' e arrivi a essere ancora meglio. Guarda, io arrivo fortissimo nella zona di Orse. Ce l'hai alle spalle, ce l'hai a tu, per forza. Su quel pallone di scala di gioca. Cioè, l'altro giorno mi è passato uno. Cazzo, mi arrivava forte, usilo ciò qua. Tutta quella zona lì, cioè si può immaginare, è che non sento più caldo di muro, se no mi sarebbe arrivato fortissimo, ma forte però me. Anch'io se salgo a Bonaria, metto un macchietto con 3 watt, mi sentite sparata la manetta. Qua non ce n'è problemi. Claudio di Muros, io lo stesso da parecchio che non lo sento. Una delle ultime volte che l'ho sentito, praticamente stavamo parlando con un suo amico di Ozieri, a Ozieri solo con i watt della radio arrivavo Santiago 7, radio 4, però se attacco penso di arrivarci anche 8-9. Ma appunto, ma dove l'hai sentito tu? Io non ho più inteso. Ho sentito una ventina di giorni fa, e prima di quella ci eravamo sentiti e siamo passati anche in SSB per fare delle prove, capito, con Ozieri, perché ovviamente usciamo con più watt in quella banda laterale, e stavamo chiacchierando con questo Luigi Lima 1 di Ozieri, e ti dico che si sentiva molto bene, era una sera tardi, una sera intorno alle 8:30-9. Sì, infatti poi ci ha sentito anche Claudio Sparviero, no? È entrato anche lui e parlava tranquillamente anche lui con Ozieri. Se non ti riesce lui, io non lo so da qua non ce la faccio a riguardo Ozieri. Con questa ce la faccio tranquillamente, capito? Solo che Claudio di Muros evidentemente se ne va, perché lui è più aperto verso quella zona di Ozieri, Mores e tutta quella zona lì, Tireddue, e sicuramente magari chiacchiera con quelle coordinate, capito? E lo sentiamo raramente qua. Non c'è altro sopra in via Gola Malfa, già è arrivato. I got a bunch of stuff, 100. uno dagli Stati Uniti, a me ti hai sparato qua, a 9 mi sta arrivando, qua è 7-8, qua è 9, sembra in questione locale, sembra americano, vai a mangiare noccioline, vai. Vai a tu, parla in inglese. Cosa ne so quello dell'inglese? Non so se ce l'ha con noi, questo. Cosa tu? Mi stiamo arrivando a forte. Sono due che stanno parlando, se non sbaglio, non è sempre la stessa persona. Fai buttare bene in occhi, te la fanno in chilo fatto, chi c'è? A tu, più forte di te, sommi! Ma fai! Ma te signore, sono più forte di te! A vero, sì, anche che te sono rivendi! A me tu mi sei rivendi, Santiago 9, te sono 9 e 10! Scalde motori, a tu! E oggi si sente un po' di tutto, oggi si sente un po' di tutto. Non posso, non posso, se no si blocca un computer. Posso scaldare il motore, se no si blocca il cadugato in occhio. Ok. Riprendi Carlo. Questo strumentino che ho preso è una figata perché c'ha tre scalette per la misurazione della potenza. Una è da 0 a 30 watt, poi l'altra è sino a 300 watt e poi l'altra scala a 3 kW. E poi quello superiore è per le onde stazionarie, già è bellino comunque. Cara, almeno lo strumenti insomma, un po' serio già ce l'hai. Va bene, meglio così. Chi è che l'altro amico che trova l'entrata? Avanti. Come sta dicendo? Cappa! E l'Antonio ci sono! Sera, Tore! Ehi, buonasera anche a voi! Sono solo all'ascolto, e boh! Buonasera, Tore! Hello, Anto! Sta già a me pari basso, Non so qua a casa, no! Cappa, chi su, Per quello, che andiamo bene, sì! Quando arrivi a te è un bel lontano dai nocchi, ma come arrivi per tu i nocchi, non è problema. E poi forse mi sono composto sotto a zitto, poi sono combinato, bussato. Ma sotto a zitto ti sei posto? 9 euro, apparecchio. Ok, dai, detto tutto, io chiudo le trasmissioni. Al limite, ci sentiamo più tardi, ciao Carlo, ciao Cattettore, ciao Catte Daniele, salutone a tutti, secondo me si apprende la propagation, io non che intendo già roba di americani, roba strana, ok dai, ciao ciao. Ehi Anto, dai, a dopo se coincide. Riprendi Carlo. Yeah, ciao Antonio, ci sentiamo magari quando rientri a casa. Se siamo ancora in radio, volentieri. Avanti Tore. Ciao Anto, stammi bene. E tante cose calde. Ora io qua da tappetivo, se tipo che gli altri sono solito, il muestro fa meno. E c'è Rusi. Forse sentono spagnoli, non lo so. E si sta girando il mondo. E poi c'è pure che mi abbia sentito, Aspetta, parlando quello, si capisce più nulla qua. Amore, quante te stava arrivando lo spagnolo, Pensa un poco. Gira. Se ti sa cosa comprendi. Io ho capito, l'ultimo passaggio, sono in Italia, non so cosa via. Forse li raggiungiamo, dai. Ok, my friend, copy. Sardinia Island here, Sardinia Island, Italy. Adelante, adelante, mio hermano, se ascolti la Sardegna, Italia, cambio. CQ, Sardinia call, CQ. C'è una cazzo di parlare con il russi adesso, Non ci sentono allora a noi. E lo dici te? Aiuto. Non lo puoi ora, però ti dici che sono Natali. Buona buonasera a todos. Gracias ahí a che turco questo, buonasera, che sei natalino? Yes! Vai natalino, tocca a balla, parla a questa gente, aiuto! Sto mangiando! Vedi, la scusa, è solo! Adesso è scesa e non vi sento neanche più! No, adesso è sceso anche lei! Tutto il casino, oltre il bailano è sceso! Meno male, c'era un casino era! Antitore, tu li sentivi? Adesso quello lì non era, non sbaglia più un turco che un spagnolo. Un mix, c'era il turco, c'era lo spagnolo, l'americano, un casino era. Misciato dai, roba misciata, allora è meglio che se ne tocca un paio di giretti. What to fight? Non si è ripreso lì. Cassa del segnale, Santiago 8-9 arriva a questo. Questo 9-5 qua a casa mi sta arrivando. Sì, io lo squelch alto, capito? Per Sassari va bene per evitare gli altri disturbi e questo li passa, capito? Come se fosse qua vicino. Io ho attenuato tutto, voglio vedere se ciò che rompe le balle questo. Oye, si el aparatico este que tú tienes ahí en tu casa, si no lo quieres, yo te conozco una persona que te paga lo mismo que tú pagaste ahora mismo. Dice spagnolo, sì. Questo è un altro, caro, questo è quello di prima. Oh, sparito. No, bueno, sto jodiendo contigo, non voglio andare a comprar nada, però. Perché io sé che sei tremendo apparato, però. La mappa solo canta la cara, quindi una buona compra. Spagnoli. Allucinante, guarda. Hai sentito? Allora, che la parte gli sta funzionando benissimo. Speriamo che non si ribrucia. Già è il suo, peggio per lui. Comunque quella gente là esce davvero con kilowatt e anche li passa i tre, e qua in Italia abbiamo un sacco di regole eccetera, ma loro in America Latina soprattutto vanno con apparecchi a bomba, capito? Che costano parecchi di nato. Già lo credo, là ne hanno. Sì, stasera lo stesso, verso dopo pranzo, dai, avevo attaccato un attimino, si sentiva lo stesso il Kentucky, gli Stati Uniti, Guatemala, l'America Latina, e probabilmente è propagazione che sta arrivando da quella zona lì. Ebbene me, datore, io stacco un attimo che sto scaricando un programma dal computer e vedo che ha finito e devo fare una copia. Ci sentiamo tra una decina di minuti come termino. Daniele, se sei ancora in ascolto, idem. Ciao Natalino, ci sentiamo tra un po'. Comunque sono in ascolto radio. Ehi, Carlo, dai, approfitto anche io che chiudo, che vado a fare una commissione veloce al supermercato. E poi ci ascoltiamo più tardi, alle prossime se coincido. Dai, saluto e circolare a tutti. Buon proseguo. Ciao a tutti, anch'io me ne passo in quel retirare. Ehi, Antu! Mi sto ascoltando anch'io! Devo fare una cosetta e mi devo spostare. È incredibile, arriva da 9:20 qua. Sintonia dell'ascolto, ricova. Vedo mi hermano della Scusiana Sardinia adelante. Hola, hola, hola, hola, attenzione ai canali 10, Italia, Nord Sardegna, Bricovar. Recuaro, recuaro, ciao Gianni. Uè, ciao. E allora, adesso un po' di propagazione. Lo so, scusa Gianni, riprendo subito, sto leggendo un documento, poi riprendo, dai. E anche se non mi impagno. Ma non puoi